Buongiorno a tutti. Per questo lunedì 23 dicembre, antivigilia di Natale, con le ultime corse per regalo dell'ultimo minuto, con i tanti Merry Christmas che girano nelle pubblicità. E noi comunque, prima di tutto questo, Radio Bullet, buon ascolto. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Violenza sessuale contro i manifestanti e le manifestanti di Hong Kong. Che cosa sta succedendo? Croazia e adozioni per coppie dello stesso sesso. E in Armenia si lotta contro la violenza di genere. Io sono Angela Gennaro e questo è il notiziario di genere di Radio Bullets. Scene di manifestanti che vagano tra nuvole di gas lacrimogeni o si scontrano con la polizia antisommossa sono diventate tristemente famose e familiari a Hong Kong. Ma le battaglie nelle strade non sono l'unica cosa che diffonde paura tra i manifestanti, scrive Amnesty International. Le accuse di molestie sessuali e aggressione a manifestanti circolano infatti da quando è iniziato l'attuale movimento di protesta a Hong Kong. Sono state segnalate aggressioni nelle stazioni di polizia, filmati di polizia che hanno messo in mostra la biancheria intima delle donne durante l'arresto e accuse di umilianti e inutili perquisizioni. Le poche donne che hanno parlato della questione hanno subito una forte reazione, di alcune sono stati fatti trapelare i dati online, altre sono state vittime di revenge porn con falsi video e hanno ricevuto telefonate moleste. Sebbene gran parte di questi abusi provenga da troll anonimi, le autorità di Hong Kong hanno creato un clima in cui, dice Amnesty International, gli abusi prosperano e non si riesce a stabilire un'indagine indipendente. A Hong Kong le cose sono ulteriormente complicate dal fatto che molte persone non vogliono che le loro famiglie o che i loro datori di lavoro sappiano di essere coinvolte nelle proteste, dice ancora Amnesty. A ottobre la Commissione Pari Opportunità di Hong Kong ha riferito di aver ricevuto più di 300 segnalazioni da metà giugno in avanti in merito alle accuse di molestie sessuali della polizia, ma nessuna lamentela, nessun reclamo è arrivato da parte delle presunte vittime. Tuttavia, dichiarazioni e ricerche di organizzazioni locali suggeriscono il fatto che il problema sia sistematico. Secondo un sondaggio online condotto da Rain Lily, un'organizzazione che fornisce supporto ai sopravvissuti e alle sopravvissute, 67 persone intervistate, di cui 58 donne e 9 uomini, hanno riferito di aver subito violenza sessuale in relazione alle proteste. Un fatto che spazia dall'essere sottoposti a un linguaggio esplicitamente sessuale, fino a rapporti sessuali illeciti per minaccia o per intimidazione, e sia gli agenti di polizia che i contromanifestanti sono stati identificati come gli autori di queste molestie e aggressioni e violenze. Alcuni manifestanti e alcune manifestanti hanno parlato e denunciato in modo anonimo anche nel corso di un raduno di 30.000 persone, Protest 2, durante l'estate. Ma la questione è arrivata all'attenzione globale in gran parte grazie alle accuse fatte da due giovani donne coraggiose, Miss X e Sonia Ng. Il 9 novembre, si legge ancora sul sito di Amnesty, la polizia di Hong Kong ha confermato che una donna aveva presentato una denuncia il 22 ottobre precedente, sostenendo di essere stata violentata da diversi ufficiali della stazione di polizia di Phuen Van. La donna di 18 anni, la ragazza, conosciuta solo come la signora X, ha affermato di aver abortito dopo la violenza e la polizia, con il suo consenso, ha prelevato un campione di DNA dal feto abortito per aiutare a identificare gli aggressori. In modo inquietante, a seguito del rapporto della denuncia della signora X, la polizia avrebbe stipulato un mandato di perquisizione per ottenere le sue cartelle cliniche dal suo medico privato, senza ovviamente il suo consenso, e comprese quelle antecedenti alle accuse. Quando la signora X ha scoperto l'accaduto, ha contestato il mandato di perquisizione in tribunale e il magistrato lo ha annullato dopo aver riesaminato il caso. I dettagli del suo caso sono stati divulgati su internet nel tentativo apparente di screditarla. Ricostruzioni giornalistiche sostengono anche che Tse Chun Chung, il sovrintendente capo della divisione per le relazioni pubbliche della polizia di Hong Kong, avrebbe detto ad alcuni media selezionati che la signora X era un po' fuori di testa, sebbene Tse abbia poi negato queste affermazioni. Secondo l'avvocato della signora X, lei ora pensa che la polizia di Hong Kong non sia in grado, non possa essere ritenuta affidabile per indagare in modo imparziale su queste accuse, sulle sue accuse o addirittura su eventuali denunce penali relative agli agenti di polizia. Sun Yang-ho invece, studentessa della Chinese University, è l'unica manifestante di Hong Kong che ha accusato la polizia di violenza sessuale usando il proprio nome. Dice che gli agenti di polizia le hanno colpito il seno mentre era in detenzione e la sua decisione ha avuto ovviamente un prezzo, ha pagato un prezzo per quello che sta facendo. La gente dice cose come «Oh, è promiscua», racconta lei. Altri si sono chiesti se sto dicendo la verità e hanno detto cose sul mio background familiare o sulla mia salute mentale. Le persone non vogliono riconoscere i problemi che ho sollevato, preferiscono eliminare la persona che li solleva. Durante le proteste anti-estradizione le autorità di Hong Kong hanno bollato i manifestanti come rivoltosi e nemici del popolo. Questo tipo di campagna diffamatoria, raccolta dai media filo governativi e dai forum online, assume un particolare connotato sessuale quando si tratta di donne, quando le donne sono coinvolte. Amnesty International ha ripetutamente chiesto un'indagine indipendente e imparziale sul comportamento della polizia di Hong Kong. Il governo indica un meccanismo esistente, lo indica come adeguato, si chiama l'Independent Police Reclaims Council, ma esperti stranieri nominati dal governo hanno dichiarato questo council, questo meccanismo, come inadeguato perché mancano i poteri e non ha le capacità investigative necessarie per affrontare questi tipi di casi. Solo due intervistati o intervistate hanno riferito all'organizzazione Rain Lily di aver raccontato cosa è successo con la polizia. La ragione più comune per cui le persone non denunciano, le donne non denunciano, è la mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine. Rain Lily ora chiede di indagare alle Nazioni Unite. Giudici, pubblici ministeri e inquirenti armeni hanno seguito la scorsa settimana una formazione su strumenti pratici per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. L'iniziativa è stata organizzata dal Consiglio d'Europa in collaborazione con l'Accademia di Giustizia della Repubblica di Armenia. 10 tra giudici, pubblici ministeri e investigatori hanno approfondito tematiche come quella della prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica, il proteggere le vittime di violenza e ritenere gli autori di violenza responsabili in linea con le norme nazionali e internazionali e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, della CEDU. La sessione sugli aspetti psicologici e sul trauma delle vittime di violenza domestica, oltre alle discussioni sui meccanismi giuridici nazionali, gli standard internazionali e i casi della Corte EDU relativi alla prevenzione e alla lotta alla violenza domestica, hanno contribuito ad approfondire la comprensione che la violenza contro le donne e la violenza domestica sono un altro tipo, un tipo speciale di violenza e che quindi devono essere considerate con approcci speciali, dice Ani Arutyunyan, giudice del Tribunale Amministrativo. Questa formazione è stata un'altra grande opportunità per discutere dei problemi sul campo e per discutere soluzioni pratiche e implementarle nella giustizia e nella legalità, ha spiegato Anait Manasnian, vice rettrice dell'Accademia di Giustizia. Dopo una lunga battaglia legale, un tribunale croato ha sancito il diritto a diventare genitori adottivi per una coppia dello stesso sesso, una sentenza definita storica. In quella che gli attivisti appunto definiscono una decisione storica per i diritti LGBTQ in Croazia, il tribunale amministrativo di Zagabria ha stabilito che una coppia omosessuale, Ivo Segota e Mladen Kozic, hanno il diritto a diventare genitori adottivi. La Rainbow Family Association, che riunisce coppie LGBT e persone che hanno o vogliono avere figli, commenta: questa è la prima volta che un tribunale della Repubblica di Croazia ha confermato la giurisprudenza internazionale e le sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, secondo cui le coppie dello stesso sesso devono essere trattate allo stesso modo legalmente come le coppie eterosessuali, spiega. La sentenza obbliga il Ministero della Demografia, della Famiglia e della Politica Sociale, che inizialmente ha respinto la richiesta di adozione, a ripetere il processo entro 60 giorni e a prendere una nuova decisione non discriminatoria su questo caso. Segota ha riferito ai media che dopo le interviste e il processo di valutazione psicologica hanno ricevuto un parere positivo dai servizi competenti, ma non hanno ricevuto risposta in merito alla procedura. Nel dicembre 2017 il Centro di Previdenza Sociale le ha informate che non c'erano le condizioni legali per l'avvio di una procedura di permesso perché erano in una situazione che si chiama associazione di vita, termine legale per il matrimonio omosessuale in Croazia. Su Balkan Insight leggiamo il racconto della coppia di Segota. Ci siamo immediatamente lamentati con il Ministero della decisione del centro, Ministero che però ha respinto il nostro appello. Non abbiamo avuto altra scelta che avviare un procedimento legale. Daniel Martinovic, si legge ancora su Balkan Insight, delle famiglie Rainbow, delle famiglie Arcobaleno, ha dichiarato che Segota e Kozic non sono le uniche coppie respinte dal Ministero, ma che il loro atto coraggioso, l'aspetto pubblico della loro campagna e il loro consenso quindi a questa battaglia legale, durante cui hanno avuto il pieno sostegno della Rainbow Family Association, è anche un precedente per altre coppie che scelgono di allargare la loro famiglia in questo modo e quindi di dare una casa calda, amore e sostegno quotidiano e un futuro migliore ai bambini magari abbandonati, ha detto Martinovic. Nel dicembre dello scorso anno il Parlamento croato ha approvato una nuova legge sull'affido, entrata in vigore all'inizio di quest'anno, e che esclude di fatto le coppie dello stesso sesso come possibili genitori affidatari. Le famiglie Rainbow hanno presentato una denuncia alla Corte Costituzionale a febbraio. La domanda è capire se la nuova legge sull'affido sia in linea o no con la Costituzione croata. E anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo e nel frattempo se volete sostenere il nostro lavoro potete sempre andare sul nostro sito alla pagina radiobullets.com/sostienici. Come back, baby, baby, don't you go. You know the way I love you, I guess you'll never know. Come back, baby, gonna talk it over just one more time. One more time. You've been a mean evil woman. Yeah, you sure did fool me. Gonna talk it over just one more time. Now go on. Con un gran bel regalo di Natale, una vittoria quella dei rossoblù per 3-2 che riporta la squadra in una posizione di classifica sicuramente ottimale e riporta anche la squadra a rivedere il gioco che l'aveva contraddistinta nella prima parte del girone di andata. Bologna che aveva in panchina Mihajlovic, bello tonico e pimpante, lo dimostra anche il pacato scambio di opinioni col suo giocatore Medel, tutto poi tornato nella normalità, negli spogliatoi, ma questo dimostra quanto i due protagonisti ci tenessero a far bella figura in quel di Lecce. Dicevamo un Bologna che torna a produrre tanto gioco in attacco, alla fine mal contate le palle gol saranno circa 17, di cui 10 soltanto prima dell'arrivo del primo gol di Olini. Un Bologna che è un sì sprecone e anche un po' in balia del portiere avversario che lì anche apposta, diciamo, si è tornati sulla vecchia modalità in attacco di costruire tanto, e peccato per i due gol presi nel finale, già sul 3-0 per il gol di Sorano e il raddoppio di Orsolini, con una sicuramente doppietta che gli fa sperare in una nuova convocazione in nazionale. C'è un Bologna che fino a quel punto dietro aveva tenuto bene, con Tomiyasu portato di nuovo centrale vista l'assenza di Danilo e con il ritorno di Mbaye nel ruolo di terzino destro, con Denswil dalla parte sinistra. Bene anche Bani, diciamo, Bologna molto molto propositivo, che ora una classifica sicuramente importante, che ha dato l'impressione appunto di essere ritornato sui propri rimi, sulla capacità di impostare la partita in un certo modo, sull'aver ritrovato fiducia e concretezza. A mio avviso non a caso ritrovato dopo qualche settimana di ritorno in campo del condottiero, dell'allenatore, che magari a livello tecnico non sarà tanto diverso dai suoi collaboratori, ma a livello di impostazione umana, di dare senso a certi discorsi, dare concretezza, forse è sicuramente meglio ed è forse anche più recepito dai propri giocatori. Un Bologna che ha francamente pochi sotto la sufficienza, se non nessuno. Il secondo gol preso da Skrupski forse era evitabile, però salviamo il positivo. Un Bologna che ora si fermerà per la pausa natalizia, al rientro alla Befana a mezzogiorno ospiterà la Fiorentina, che in queste ore dovrà decidere chi portare in panchina. Ora qui ci si divide fra peccato che ci sia la pausa o meno male che c'è la pausa. In questo periodo partirà anche il mercato di riparazione, chiamiamolo così, quello di gennaio, dove a mio avviso qualcosa magari tra difesa e centrocampo sarebbe opportuno portare. Non penso che sarà il mercato che allontanerà Mattia Destro dal Bologna, però da un lato arrivarci con un maggiore serenità a mio avviso non è un aspetto negativo. La sensazione è quella che questa squadra non abbia tantissima personalità, e quando c'è Mihajlovic durante gli allenamenti magari gliela fa ritrovare, ed è poi la squadra in grado di fare prestazioni come quella di ieri, con un Lecce che sì, non aveva mai vinto in casa e quindi ci temeva di essere la vittima sacrificale dei grandi numeri, però che aveva sempre dato buone prestazioni anche in fase di rimonta, vedi Cagliari, e quindi questa vittoria vale tantissimo per il proseguo della stagione. Vale tantissimo anche la vittoria della Fortitudo 78-72 con contro Brindisi, che porta ad vedere molto più vicino la Final Eight di Coppa Italia. Una Fortitudo che ha visto un grande Sims con 17 punti, 17 rimbalzi, 7 stoppate, sicuramente mattatore incontrastato e sicuramente doveva sopperire all'assenza di Ed Daniels, che è stato infortunato in questi giorni, una fortuna che è riuscita a togliere energia a Brindisi e non farla quasi mai giocare nel modo che preferisce, cioè in transizione, quindi non farla correre, abbassando abbastanza i ritmi e tenendo bene a livello fisico, non subendo più di tanto Brown e compagni. Forse diciamo 17 punti di Sims, 15 di Roberts e un 14 di Nunen, che è stato chirurgico, 4 su 4 da 2, 2 su 4 da 3, con le due triple in momenti dedicati della partita, anche se la fortuna è sempre stata davanti, però Brindisi ha giocatori che hanno la possibilità di accendersi in un amen, e qui è stato bravo coach Martino a non concedere mai questa possibilità agli ospiti per riuscire a portare a casa una vittoria molto molto importante. Invece perde la Virtus, lo fa 91-77 a Sassari contro una squadra, quella isolana, che ha avuto sicuramente molto più energia e ha avuto probabilmente la possibilità di mettere la lente di ingrandimento su una situazione che per la Virtus è complicata, ovvero giocare contro giocatori molto più veloci nel ruolo di 3-4 di quelli della Virtus, quindi Pierre e Ivans alla fine fanno 18-17, Bin 12, una Virtus che ne ha 22 punti dal solito Teodosic, 12 da Baldirossi, 11 da Wims, però come dirà poi coach Sari Giorgievic nel dopo partita, è sempre stato in balia degli avversari, non ha dato concretezza, soprattutto all'inizio, una partenza 10-0 che purtroppo è un leitmotiv per la Virtus durante tutte queste stagioni, quindi delle partenze ad handicap, e con la Virtus che durante la partita ha dovuto fare a meno di dei suoi giocatori americani che non hanno dato grande intensità, grande spolvera, anche Marco che è sotto il suo standard, perché probabilmente anche lui reduce da un infortunio, Gamble male, 5 falli alla fine, Hunter è stato tenuto è scelto Relia al suo posto, e durante poi la partita c'è stato un piccolo infortunio che verrà valutato poi in settimana per quanto riguarda Gaines, con un problema a un ginocchio, quindi vediamo come si arriverà all'evento, diciamo così, del 2019, giorno di Natale, ore 20:30, Derby Virtus Fortitudo, la Segafredo Arena, partita sicuramente che tutti attendono, ci saranno quasi 9.000 persone a vederlo al palazzo, gara che come tutti i derby si porta via tutte le varie possibilità di pronostico. Sicuramente la Virtus è favorita, oltre perché gioca, che ha sicuramente un roster in questo momento più importante, ma la capacità della Fortitudo fin qui è sempre stata quella di portare le squadre sia fisicamente che tecnicamente più forti di lei a giocare ai suoi ritmi come le pare, quindi sarà sicuramente una gara interessante, molto bella, auguriamoci in una cornice sicuramente ideale, senza problemi di sorta tra le due tifoserie, e sarà sicuramente un banco di prova importante, perché per la Virtus la partita di ieri a Sassari e il derby è sicuramente una cartina di tornasole importante per il proseguo della stagione dei ragazzi di coach Sacha Giorgievic. Per questo è tutto, per questa settimana è tutto, buon Natale! Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì. L'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori son più cari perché sono anti-forfora. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana. Acqua, acqua, acqua. Fon. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Nove 30 minuti in punto di questo 23 dicembre, antivigilia di Natale. Allora, sulla storia di copertina del Fatto Quotidiano è con il bue e l'asinello, ovvero sia il senso del Natale ai tempi dell'odio. C'è l'amore al tempo del colera, c'è il Natale al tempo dell'odio. E allora due interviste, una di Antonella Caporale e l'altra di Stefano Caselli, la prima con Maurizio Di Giovanni, scrittore, la seconda con Don Luigi Sotti, l'animatore, il prete animatore di Libera Antimafia. Dunque, risponde Di Giovanni, un anno orribile questo 2019, hanno vinto ipocriti e cattivi. Il bilancio tranciante dello scrittore napoletano di libri noir, abbiamo creduto la bugia, trasformati i migranti in invasori. E poi in questo quadro molto negativo dice però le piazze domande si riempono e questa è la novità, un po' di balsamo, si scende in piazza con il proprio corpo e già questo è un messaggio definitivo, è una boccata d'aria pura, dice Di Giovanni parlando del movimento delle sardine. E allora è infine sul mondo connesso, appunto la domanda recita: nell'età della connessione permanente avremmo potuto aspettarci qualcosa di più? Se 50 anni fa avessimo pensato a come oggi riusciamo ad informarci, ad essere cittadini del mondo, a sapere cosa succede ogni cosa in tempo reale, avremmo immaginato che questo fosse il paradiso, invece no, che fregatura. E questo è Di Giovanni. Invece Don Luigi Ciotti: ora è necessario restare un'emorragia di umanità. Il concetto è lo stesso, però con animato da quel spirito cristiano. Don Luigi Ciotti: le vittime sono innanzitutto i deboli, gli esclusi, le persone senza voce nei diritti, cioè i poveri, gli immigrati, i giovani, e con loro la terra. E poi dice una cosa che farà sicuramente arrabbiare Libero o il giornale: farei un presepio multietnico, un presepio che sia simbolo di sintesi, di incontro, di relazione, un presepio di vita, dice Don Luigi Ciotti. Allora, su questo fine d'anno cambiano il clima, dalle promesse, dalle letterine, alla vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera. Ed è Conte che augura buon Natale a Mattarella, buon Natale, salvo intese. Questo è il tema, il clima che si respira nella maggioranza e nel governo, con diversi problemi all'ordine del giorno. Per esempio, il Gazzetta del Mezzogiorno conferma, per l'appunto, salvo intese, una manovra sulla fiducia. Baraccio di ferro infinito nel governo sulle concessioni autostradali. Crippa, vice di Salvini, alla Gazzetta dice: Bossi è sbagliato sul meridione. Questo è la Lega del dopo finto congresso che ha fatto la Bad Lega, per scaricargli i debiti. È un ottimo sistema: se domani Radio Città Fucico si indebita, cosa facciamo? Facciamo la New Radio Città Fucico e i debiti li scarichiamo a quelli che non ci sono più. Questo è il meccanismo furbissimo della Lega, a proposito di Roma ladrone. Ma si diceva, appunto, autostrade, pronti alle vie legali, è delitta continua Zingaretti, Di Maio. Perché il PD sembra non voler essere così deciso a togliere le concessioni alle autostrade, Benetton, Atlantia, eccetera, che fino adesso grandi prove di sé evidentemente non hanno dato, vedi Ponte Morandi. Oggi il Consiglio dei Ministri sulle mille proroghe, si vota la manovra blindata, le opposizioni insorgono. Questo, allora torniamo alle autostrade, ritoccati gli indennizi, leggo dal Corriere della Sera, ma resta il nodo del ruolo dell'ANAS, cioè se diventa gestore, gestrice anzi delle autostrade o meno. Qui si cerca l'accordo, nel nuovo testo una clausola per salvaguardare l'occupazione. All'Italia, i Lieve Banchi, flop di giallorossi bocciati in economia. Questo naturalmente il giornale che vede tutto il bicchiere vuoto, perché vorrebbe che il bicchiere si riempisse di centrodestra. Il governo ha latitato su crescita e lavoro e fanno tremare le 149 crisi aziendali aperte. Esattamente questo fa tremare, non c'è dubbio. E Libero: aveva ragione Salvini, Renzi ha capito. Renzi diventa il profeta del centrodestra, secondo Libero. Adesso il rottamatore ha brigato per dar vita a un governo con 5 stelle, adesso si accorge che le idee dei grillini sono scandalose. Il Matteo leghista abbandonò Gigino, l'altro Matteo cosa aspetta? E allora Salvini è il protagonista della Verità, quindi siamo dei giornali dell'estrema destra. Oggi la democrazia è sospesa e Mattarella tace. Chissà perché sarebbe sospesa, ma questo lasciamo la risposta ai lettori della Verità, ammesso che abbia dei lettori. Mentre la Stampa torna sull'autostrada, ma veniamo al Mattino, che parla appunto delle vicende governative, mentre nel Gazzettino più esplicitamente la battaglia sulle autostrade. Oggi, domani sta sulla prescrizione, dopodomani sta su quell'altro, non so. I renziani in trincea contro il passaggio ad ANAS in caso di revoca delle concessioni. Allarme e critiche dell'AISCAT per Palenzona, un danno al settore e al sistema paese, no, al sistema gestore autostrade, un danno. Allora, scendendo poi in questi giornali lunedì, che non sono tantissimi, perché sappiamo che molti giornali lunedì riposano, andiamo al secolo XIX e siamo nell'area ligure. I guai della gestione delle autostrade, pochi investimenti, profitti eccessivi. Questo direi che è una cosa sotto gli occhi di tutti. Questo è quello che arriva dai giornali in giro per le edicole. Eccoci nuovamente, buongiorno anche da William Piana. Le prime pagine dei quotidiani odierni per quanto riguarda la politica interna spaziano su diversi argomenti, tra le piazze, le infrastrutture, gli aeroporti, le banche. Cominciamo da Repubblica: il sondaggio Italia, vengo anch'io, cresce la voglia di piazza, da Greta alle sardine, aumentano il sostegno e la partecipazione alle proteste, lo studio Demos mostra un calo nella fiducia verso magistrati e imprenditori. L'approfondimento ampio da pagina 2 a pagina 3, lo Stato non convince, tornano l'impegno e la voglia di piazza. Si conferma il distacco dalle istituzioni, in calo magistratura e banche, rimane alto il consenso per le forze dell'ordine e il Quirinale, che tanto le banche il consenso se non ce l'hanno se lo prendono, per cui fanno presto. Più fiducia in scuola e sanità, solo si taglio dei parlamentari, il 23%. 5% va in corteo. Sardine e Greta mobilitano a pagina 3 di Repubblica. Questa politica, i partiti e le istituzioni della rappresentanza continuano a non soddisfare. Le aspettative degli italiani verso la democrazia sono elevate. Anche per questo i movimenti di protesta che ciclicamente irrompono sulla scena suscitano l'interesse dei cittadini, i quali appaiono sempre più disorientati tra l'uomo forte e la piazza. La protesta ha assunto un significato importante in questi anni. Le immagini appunto di Greta Thunberg riprende a pagina 3 Repubblica. Vediamo anche altre argomentazioni, come vi ho detto, in maniera sparsa per quanto riguarda autostrade e banche. La Stampa allora titolo principale: il dossier del governo, autostrade violato il patto con i cittadini, la Corte dei Conti, profitti ingiustificati, pochi investimenti e controlli, accuse shock contro tutti gli operatori, Atlantia è pronto allo scontro legale. E intanto l'editoriale di Alessandro De Nicola in prima pagina dalla Stampa: tutelare la concorrenza, la sirena degli aiuti di Stato, profitti alti, investimenti minimi, le autostrade come una zona grigia, le analisi Atlantia che teme i mercati e prepara la guerra legale. Si parla anche di 5G, famoso 5G, pagina 5 di La Stampa. Il PD propone l'alternativa dei cinesi, una società italiana per proteggere i dati. Zingaretti, che riprenderemo tra poco, contro le soluzioni prospettate dai 5 Stelle sulle gestioni della rete. Attacco sul piano per l'innovazione, attenti al ruolo di Casaleggio. Giampaolo Mazzella, sottosegretario delle telecomunicazioni, è prudente sulle reti, una tecnologia che comporta anche rischi, sulle scelte necessarie coinvolgere l'Unione Europea. Non si tratta più di proteggere solo la concorrenza interna, ma anche l'Unione dall'esterno. Queste le argomentazioni che ci portano, come vi ho detto, a Zingaretti, che per concludere il cerchio poi prende la politica interna dal punto di vista di una lista di Conte alleata ai progressisti. Il leader PD chiede una verifica di maggioranza seria. Chi rompe paga, ma in caso di elezioni anticipate apre la discesa in campo del Premier. Il leader PD Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione in mezz'ora in più, parla del Premier Conte, e qui sono ritratti tutti e due in fotografia. E qui anche dal Resto del Carlino a pagina 9 le stesse argomentazioni: il PD contro gli affari di Casaleggio, Movimento 5 Stelle in tilt, dopo il piano di innovazione spuntano le consulenze per Mobi, imbarazzo tra i grillini, Zingaretti fare chiarezza sul conflitto di interessi, l'ente di Banca Italia su operazioni sospette con il sito di Grillo, Casaleggio Associati, tra il 2017 e il 2019 la compagnia navale finanziò anche la famosa Open. Parliamo di Salvini e ritorniamo sulla Stampa. Salvini accerchia il Premier, ora la sfida inizia dal Sud. Il leghista accelera, troppo tempo all'opposizione non aiuta e teme la nuova centralità di Conte. Se il governo non cade nell'anno che verrà, Salvini punta all'assedio. I passaggi non sono però così scontati, dovrebbe andare a segno con una serie di obiettivi, a cominciare dalla vittoria elettorale in Calabria e in Emilia Romagna il 26 gennaio. Ma se ciò non accadesse, punto di domanda, si chiede La Stampa con Amadeo La Mattina. La Lega Salvini prepara il Premier, che sabato ha di fatto accerchiato la Lega per l'indipendenza della Padania. Bisogno di tempo per consolidare e mettere radici anche al Sud, ma per fare questo deve passare per le forche caudine calabre. Non sarà una passeggiata dopo la rottura dentro Forza Italia con la candidatura di Iole Santelli e il veto imposto dal leader leghista al sindaco azzurro di Cosenza Mario Chiuto. Se il governatore demuscente Oliverio dovesse rinunciare a candidare, ieri girava un'insistenza a questa ipotesi, e sostenere le sue truppe il candidato voluto dal PD è Pippo Callipò, non sarà facile per il centrodestra vincere. Salvini potrebbe trovarsi di fronte a uno scenario non previsto, cioè di non farcela né in Calabria né in Emilia, dove Bonaccini sembra che stia accrescendo il distacco dalla leghista Borgonzoni. La partita delle regionali è comunque tutta da giocare. Così si chiude con le regionali per quanto riguarda invece La Stampa sulla politica interna. Proseguiamo e vediamo quello che è per Casaleggio dalla Repubblica: nuovi contratti e boom degli utili, la stagione d'oro della Casaleggio, i legami con la Cina, Patuanelli difende la scelta di Huawei per il 5G nonostante i dubbi del Copasir. Questo per i 5 Stelle. E con approfondimenti di Calenda e il tweet sul Campidoglio, prove di candidatura, l'ex ministro dice no, è solo ironia, ma non lo esclude. L'idea raccoglie consensi e il PD allo stesso tempo potrebbe anche appoggiarlo. Sì, sempre bilanci fino ad Anna, abbiamo questo curioso titolo del giornale: studio europeo, meglio identificato studio parigino, l'Italia è il record di giornalisti di sinistra. Si vede che Radio Fusico è molto ricca in Italia. Elettori moderati, analisti schierati, nessuno come noi. Si lamenta il giornale perché per sinistra intende anche Matteo Renzi, per esempio. E allora, fuori dalla realtà, il vecchio vizio dell'ideologia, dice Luigi Mascheroni, perché l'ideologia è sempre quella degli altri, mai la propria. E infatti, se andiamo dell'ideologia di Mascheroni, che dice in questo articolo di fondo del giornale: da noi poi l'intellettuale, o per estensione l'intero mondo della cultura, o è di sinistra o non è. Ormai siamo abituati a quei curiosi cortocircuiti politici informativi per i quali, mentre la sinistra vale sempre meno nelle urne, il centrodestra ha 1 milione di consensi nel paese, in prima serata in Rai chi va in onda in intervista del giornalista Fabio Fazio, la resistente Carlo Racchetti. Ecco la prova, la pistola fumante, Carlo Racchetti in TV. Naturalmente ci si dimentica del TG2 leghista, ma questo non fa testo secondo studio. Allora vediamo uno dei tanti giornalisti di estrema sinistra secondo il giornale, che è legato alla figura di Mieli, che viene interpellato dal sempre questo fine d'anno, e dice Mieli che bisogna moderare i termini e che le sardine, parla anche lui di questo, e siccome sono d'accordo tutti non è una cosa seria, ma che sono d'accordo tutti sulle sardine è poi tutto da vedere, perché per esempio vediamo questo elemento che arriva dal giornale con le polemiche molto forti tra Salvini e la sardina Cristallo. La sardina Cristallo a Salvini: sua figlia sa cosa fa alle donne? Dopo la gogna che la bestia leghista, cioè la macchina di Facebook di Salvini, le ha aizzato contro, l'attivista risponde con una canzone e una lettera aperta. Caro Salvini, le chiedo se ha intenzione di raccontare a sua figlia che sulla pagina Facebook permette a legioni di frustrati di sfogare pulsioni sessuali represse. Lo saprà sua figlia che consente ai suoi sostenitori di inneggiare allo struppo di gruppo per punire una donna che semplicemente non la pensa come lei? Yasmin Cristallo, attivista calabrese tra i coordinatori del Movimento 5-6.000 Sardine, quello dello stupro, basta ricordare appunto la vicenda della Rachele quando approdò in Sicilia. Comunque, questa lei è Yasmin Cristallo, attivista calabrese tra i coordinatori del Movimento 6.000 Sardine, militante della sinistra, ma senza tessere di partito, alla macchina infernale aizzata dalla bestia. Preferisce rispondere con parole e concetti in una lettera indirizzata a Salvini, la letteratina non a Babbo Natale, ma a Capitan Salvini. L'ennesima violenza contro l'animatrice della rivolta dei balconi calabri durante la campagna elettorale per l'Europea scaturisce dalle centinaia di commenti beceri e sessisti che sono stati scagliati contro di lei dopo che Salvini l'altro ieri ha pubblicato su Facebook un link all'intervento della leader del Sardine calabrese a 8:30. Commentando nella didascalia del video: possono camuffarsi da pesci, alberi, frutta tropicale, ma gratta gratta sono sempre i soliti sinistri. Ospite di Lilli Gruber, la Cristallo, dopo aver rivendicato con orgoglio il suo essere di sinistra, quindi Salvini non ha scoperto nulla, ha duramente criticato i decreti di sicurezza definiti un abbonmigno e un regalo alle mafie. Ma sui social bestie tutto è degenerato. Essere di sinistra è da vergognarsi, viste le decine di milioni di morti causate dai comunisti nel mondo dove hanno instaurato la loro dittatura, un'ideologia che andrebbe messa fuori legge come il nazismo. Sono tra i pochi commenti non sessisti, cioè quelli più politici, scritti dai supporti di Salvini. Una mole di brutalità e aggressioni delle mosse della bestia su cui la Cristallo ha deciso di replicare, prima intonando Gente di mare di Raffetozzi e poi invitando i miei amici a non rispondere alle offese o a farlo con parole positive e versi di poesia nella lettera inviata a Salvini. Ma noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, guarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va, gente di mare di Tozzi. Dunque, veniamo, allora si parlava della Lega. Abbiamo notizie natalizie. Un lapsus calami in rete. Gesù, camorrista e leghista, il Carroccio sbanda in rete. Polemiche, leggo dal giornale, per il fotomontaggio di Gesù camorrista che tiene in mano il presepio con cui Matteo Salvini si era presentato sabato al congresso della Lega. L'account Twitter ufficiale del partito ha pubblicato l'immagine che ha scatenato il sarcasmo e l'ilarità di molti utenti e poi ha rimosso il tweet spiegando che si era trattato di un errore nella procedura di traslazione da Facebook. Quindi Salvini si presenta con un presepio in mano e viene rappresentato con Gesù camorrista, che è una cosa un po', insomma, vedremo che si presenterà poi con la bottiglia di fine d'anno, immagino, insomma, tutte le cose che servono al momento, il grana padano, poi c'è la Madonna, insomma c'è tutto quello che serve per lisciare il pelo a una becera base popolare. Ma parliamo allora dell'ambiente. La terra dei fuochi brucia sempre di più. Il report, che anche questo fa un po' bilancio già degli ultimi anni, tra un po' arriveranno tutte le antologie, gli almanacchi. Adesso qui parliamo invece dell'ultimo anno, i roghi sono aumentati del 30%, quindi nonostante la vicenda è stata scoperta e essere resa pubblica dalla stampa, si è aumentata anche la coscienza pubblica, ma aumentano anche i roghi. 90 i paesi coinvolti. In questi anni nulla è cambiato nonostante i droni, l'esercito, la cabina di regia, patto d'azione e il commissario. Dimostrazione che queste cose non servono a accidente niente se non c'è la famosa volontà politica. Sarra Buono, l'esercito sta lì, 250 uomini senza potere di polizia giudiziaria, stanno a fare, si spaventa passeri, davanti sono le carcasse di auto rubate e poi bruciate, i frigoriferi di rami, gli scarti tessili e quelli di pellame, tutto bruciato. Si intitola La terra dei cieli, dei ciechi, scusate, la puntata di Report in onda questa sera dedicata all'area di Napoli e Caserta. Il Report fa sempre dei report, scusatemi il bisticcio, incredibile. L'ultimo era sui pesci, il pesce persico del lago Vittoria, da fare crollare degli imperi, invece nessuno fa una piega. Ma detto questo, perché siamo un paese che è abituato a ben altro, il clima non ci fa sconti, bufere di vento su tutta l'Italia, alberi sradicati, un morto in quel di Napoli, in Irpinia l'acqua solleva una piazza. Questa è la piazza in pensile. Un papà a Pistoia salva il figlio di 7 anni caduto all'interno del fiume e danni vari, alberi che cadono qua e là, con vigili del fuoco impegnati in 1000 interventi. Nel frattempo, questa mattina leggiamo che a Venezia peggiora la marea verso i 150 centimetri. Quindi leggo testuale il flash agenzia, peggior la previsione di marea per stamane a Venezia con una possibile punta di 150 cm di acqua alta alle 9.40. Lo comunica il centro maree del comune. L'onda di sessa, il movimento oscillatorio dell'Adriatico, non presenta la sua usuale attenuazione. Possibile massimo di 145-150 cm alle ore 9.40 per la punta, cioè 10 minuti fa. Nelle stazioni di rilevamento in mare la marea tocca già in questi momenti 140 centimetri in città, sta salendo ed è intorno ai 115 centimetri. Sì, riprendo anch'io il clima, riprendo velocemente un argomento a pagina 10 che non abbiamo approfondito, però merita proprio per vedere la realtà banche come la Popolare Bari, tante altre, ma adesso la protagonista è la Banca Pugliese. Così Jacobini svuotò la cassa. Siamo a pagina 10 di Repubblica. L'ex presidente dell'istituto, poche ore prima del commissariamento, sapete cosa ha fatto nel dubbio? Ha preso 5 milioni e mezzo di euro dal libretto in banca per dirottarli a 6 diversi destinatari, proprio intanto che lui stesso in pubblico rassicurava i clienti. Le operazioni effettuate fra 12 e 13 dicembre, un'ultima finestra possibile prima dell'annuncio del crack, il bonifico più importante girata su un altro conto a lui intestato in Banca Sella, ora il saldo è di 2.500 euro e questo il paragone, insomma, tra la cifra che vi ho citato inizialmente è abbastanza esplicito. Maltempo, clima, ovviamente mi ricollego a pagina 12 della Stampa, poi prendo anche il resto del Carlino. Mareggiati in Liguria, un morto schiacciato da un albero a Napoli, scusate, navi incagliate in Sardegna, cede un muro a Barigotti, una piazza sollevata dall'acqua in Irpinia e già sono 300 gli evacuati. L'immagine qui cosa riprende? La nave mercantile incagliata a Sant'Antioco nella Sardegna sud-occidentale, la spiaggia di Barigotti travolta dalla mareggiata con l'acqua che arriva ai primi piani delle case, danni per il vento nella zona del Vomero a Napoli. La prima pagina della Stampa poi riprende la carcassa di un animale ucciso morto sul litorale romano. A Napoli un uomo è stato travolto e ucciso da un albero, danni evacuati, un morto, il maltempo sferza la penisola. Prendiamo anche il resto del Carlino, gli alberi che uccidono giù per potature sbagliate. L'uomo schiacciato da un tronco caduto a Napoli, crolla a Roma e a Pisa, l'agronomo attacca, comuni poco lungimiranti, la sicurezza è a rischio. I comuni che sono poco lungimiranti, sicuramente ci sono delle falle, soprattutto perché con appalti, subappalti, triappalti per quelle che sono realtà al ribasso, portano poi anche a un lavoro di qualità al ribasso. E dove si va a tagliare? Proprio in queste situazioni di sicurezza, quando si riusciva a lavorare con i dipendenti comunali, con chi si occupava dello smaltimento, con chi si occupava di liberare i tombini, di tenere sempre le strade in un determinato modo, certo è sempre piovuto, certo adesso ci sono dei cambiamenti, ma magari nelle singole città certe manifestazioni riuscivano a essere un pochettino più limitate. Autocolpita la donna illesa, Pino sull'asilo, la tragedia è sfiorata. A Roma ieri mattina è caduto un albero enorme che, dopo aver sfondato due muretti di recinzione, è finito nel cortile di una scuola materna che accoglie bambini dai 3 ai 6 anni. L'istituto fortunatamente era chiuso e quindi non ci sono state vittime. Per quanto riguarda le vittime, invece, in prima pagina sul Carlino, ma anche tutti gli altri quotidiani riportano questa notizia di cronaca: strage di pedoni, due sedicenni falciate dal figlio di un noto regista, era positivo a droga e alcol, con 14 ore, ogni 14 ore un morto investito. Strage di pedone, così dice il resto del Carlino, attento alla cronaca, e riporta dati, riporta statistiche SOS degli esperti. Strage infinita, in 2 anni i morti sono cresciuti del 7%, c'è bisogno di più interventi della polizia nelle aree delle discoteche che nei pub. L'ASAPS, pochi investimenti in sicurezza, l'omicidio stradale funziona meno. Intanto il caso specifico di queste due ragazze vittime dell'ultimo caso di cronaca che ha portato le strade di sangue, amiche di corsa sotto la pioggia, schianto nella movida di Roma, quindi la colpa è della movida, insomma sappiamo bene come il resto del Carlino poi riporta i dati e come ha un punto editoriale per queste situazioni che approfondisce spesso. Lui 20 anni è il figlio del regista genovese, positivo alla droga e all'alcol, i rilievi, era distratto, smartphone al setaccio, i corpi lontani lontani dalle strisce. E poi i dati delle forze dell'ordine: drogati al volante è emergenza, aumentano gli schianti mortali, sono il 6,5% del totale, nel 2015 erano il 2,3%. Si guarda certamente di approfondire in queste realtà, bisognerebbe guardare anche a un'educazione stradale in generale, bisognerebbe guardare anche a quelle che sono auto che sfrecciano drogati o non drogati al volante a tutta velocità e senza controllo in strade urbane di alto traffico di pedoni. E infatti il dato che poi riporta a pagina 3 è un pedone ucciso ogni 14 ore. SOS degli esperti, è una strage infinita. In 2 anni i morti sono cresciuti del 7%. Dice il Corriere: l'ultima serata di Gaia Camilla, travolte e uccise sulla strada per casa. Ponte Milvio, le 2 sedicenni non erano sulle strisce pedonali. Ora adesso si darà la colpa alla droga, ai giovani. Poi, dopo aver segnalato appunto giustamente come anche si dà la colpa a tutto meno che l'automobile, che quando il massimo in autostrada è 150 possono andare a 180, 200 e oltre chilometri all'ora, ma a parte questo abbiamo la foto aerea di questo incidente e si vede che le due regate hanno superato la strada in un punto dove c'è uno stradone tipo il nostro via Sabotino, con tanto il guardrail lì si lontano dalle strisce pedonali, perché le strisce pedonali sono ben lontane e in più per raggiungere bisogna superare anche una rampa di uscita delle macchine, quindi è pericolosissimo. Allora, perché mai non aspetta questa accusa le macchine e le strade, oltre che giustamente chi guida drogato o ubriaco, per vedere quant'è poi questo tasso alcolemico o altro? Comunque, come sempre, la colpa va sul singolo e mai sulle situazioni generali. Ma questo, se appunto guardate la cartina, la foto aerea di questa cosa, risulta chiarissimamente che era un passaggio da una parte all'altra impossibile. E infatti dicono i testimoni che è una strada con 1000 incidenti, grandi e piccoli che ci siano. Ma parlavamo di clima. E ancora ci torniamo sopra perché anche se inutilmente rispetto a certe orecchie che non vogliamo sentire noi insistiamo, parliamo del fallimento della COP25 di Madrid, che dimostra quanto la politica non abbia ancora preso sul serio il grave problema dei cambiamenti climatici. Eppure il tema è urgentissimo. Il nostro Andrea Utensili ha intervistato Nicola Armaroli, ricercatore del CNR di Bologna. Sentiamo le sue parole. Noi sappiamo dove dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere flessibili, perché non è assolutamente detto che quello che pensiamo sia buono oggi valga anche domani, perché magari ci sono eventi inattesi, scoperte inaspettate, eccetera. Però sappiamo già dove dobbiamo andare. Quindi il problema è come nelle aziende: quando il capo decide, si fa. Qui è un problema politico alla fine, mi dispiace dirlo. Io mi sono occupato, ho fatto vedere solo numeri, però se il politico decide, si fa. È per quello che noi spingiamo alla Commissione Europea perché finanziano progetti di questo tipo, perché loro hanno in mano il coltello. Quindi purtroppo l'abbiamo visto anche adesso a Madrid: non c'è la volontà politica perché manca un certo senso di responsabilità. Poi ci sono le ripicche tra gli stati, insomma. In questo mondo così piccolo e così globalizzato è veramente ridicolo che ci mettiamo qui in una casa propria e pensare di risolvere questo problema colossale che nessuno risolverà mai da solo. Francamente non ne posso più, ma proprio dal punto di vista puramente tecnico di questa discussione sbilanciata, si parla solo di importazioni di persone, possiamo metterci qua a discuterne come farla, chiaramente va fatta in modi decenti, dignitosi, razionali, ma non possiamo far finta di niente sul fatto che da quei paesi vengano spesso, spessissimo le risorse che abbiamo bisogno. Faccio un esempio molto concreto. Il paese che ha le più grandi risorse di fosfati nel mondo è il Marocco, un paese che adesso non ha una grande importanza geopolitica ma che l'assumerà in futuro sempre di più, perché sfamerà il mondo col suo fosforo, perché si fanno quei fosfati, si fanno i fertilizzanti e quindi diventerà cruciale, come la Bolivia diventerà cruciale per il litio, il Marocco diventerà cruciale per il fosforo. E quindi vedete, salgono alla ribalta nuovi paesi in questo mondo globalizzato che bisogna di risorse, di grandi risorse, e che adesso paiono insignificanti. È curioso che fosse una delle più grandi comunità di stranieri alimentari proprio quella marocchina, quindi noi pensiamo di importare solo persone, ma importiamo anche cibo, di fatto dal Marocco lo importeremo sempre di più, e questo ricordiamocelo sempre. Quindi io vado spesso nelle scuole e vedo che la consapevolezza dei giovani è aumentata notevolmente negli ultimi 15 anni, che poi siano pronti anche ad azioni che li mettono in gioco, questo anch'io dei figli, insomma, a volte si fa un po' fatica, però sicuramente la consapevolezza dei giovani è aumentata. E ai ragazzi dico questo problema va risolto nei prossimi 30-40 anni, corrispondono esattamente all'età lavorativa, quando vado in un liceo per esempio o in un'università, vostra. Quindi questo enorme problema sta franando addosso, è già franato addosso la vostra generazione, quindi se lo risolverete la storia si ricorderà di voi, perché va risolto proprio in questo periodo. Quindi abbiamo avuto centinaia di generazioni nel passato e c'è questa che abbiamo davanti nei banchi dell'università, davanti alle scuole, i nostri ragazzi di oggi, i nostri figli, e sono quelli che dovranno risolvere questo problema, e mi rendo conto che spesso invece la battaglia con i più vecchi è persa. Andare a parlare di certi argomenti, di risparmio energetico, anche di termodinamica, per fargli capire quanto è complesso questo problema, a persone che hanno un'età maggiore è più difficile. Io dico sempre, che l'ho detto anche durante la conferenza, a partire dai ragazzi, dai giovani, dai bambini, perché se tu parti da loro può darsi che loro convincano i più grandi a cambiare, viceversa no. E quindi partiamo dai piccoli. Che il fatto che è emerso il ruolo politico dello scienziato, del ricercatore, che deve tirare una traccia, deve dare delle definizioni, e oggi è uscito senza ombra di dubbio qual è il problema energetico, qual è il cambiamento del clima, che sono tutti problemi collegati. Sì, sono assolutamente problemi collegati, e secondo me gli scienziati dovrebbero tutti quanti impegnarsi un po' di più in questa direzione, perché il nostro ruolo nella società è ancora abbastanza riconosciuto, cioè abbiamo una buona reputazione mediamente, anche se non sono sempre meritata, e quindi dobbiamo impegnarci di più. Quindi dedichiamo un po' meno tempo a scrivere un articolo, scriviamo un articolo in meno, ma facciamo un incontro in più in un centro sociale, in una biblioteca, in un centro culturale, in un'occasione come questa. Ne abbiamo bisogno. Qualche notizia sul progetto europeo Sunrise? Stiamo facendo molta fatica, perché al momento attuale la Commissione europea è cambiata e non sappiamo dove andremo, però sicuramente ci hanno garantito che ci sarà un grande finanziamento, però li dobbiamo guidare. Un po' quel discorso che facevo prima, cioè bisogna convincere i politici, cioè bisogna andare là, bisogna andare è sfinente, vi assicuro che è sfinente cercare di convincere la politica, che per tanti mesi in Europa è stata ferma, però è la strada che dobbiamo battere, e lo faremo. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Corrediamo le notizie di cronaca col Resto del Carlino. A pagina 5, addio turisti, siamo tagliati fuori, città in ginocchio, danni enormi, intervista al sindaco di Fermo. In prima linea nelle battaglie del Fermano per risolvere l'incubo viabilità provocato dal sequestro dei viadotti dell'A14. C'è sempre stato il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, primo cittadino della città capoluogo. Da quanto tempo va avanti questa situazione? Dal 4 ottobre, cioè da quando il GIP di Avellino ha deciso di porre sotto sequestro tra gli altri 4 viadotti autostradali che si trovano in provincia di Fermo e dove le corsie a 3 diventano 2. Allora, sicuramente è un grave disagio in una città soprattutto che ha una buona parte di importanza per il turismo, però non è tanto la situazione dedicata a una specificità quanto in maniera totale la problematica diventa importante. In primo luogo sulla sicurezza di chi percorre questi tratti, non è addio turisti perché accidenti, un mancato cespite, sì certo, non ho dubbi di questa problematica, ma è più importante metterli a posto semplicemente perché ci si passa da lì sopra e ci si passa e spera di attraversarlo da parte a parte in maniera indenne. Ponti sequestrati, incubo Adriatica, l'Italia delle feste spezzate a metà, carreggiate ristrette, 5 ore per andare da Ancona a Pescara, esplode la rabbia degli amministratori, Fermo, Grottammare, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Pescara. La decisione del GIP legata alla strage sulla A16 di 6 anni fa. Infatti, viadotti insicuri, sono necessari interventi urgenti per quanto riguarda i ponti, per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda anche eliminare le attese o i disagi per i pendolari, per le tratte che portano al lavoro tante persone. Mentre invece dalla stampa, di cosa ci occupiamo a pagina 10? Dell'alta velocità. Tra Roma e Milano è esplosa l'offerta di Trenitalia e Italo, ma le due stazioni non reggono il traffico. La linea direttissima tra Firenze e la capitale, il crollo di bottiglia e il collo di bottiglia che rallenta l'intera circolazione. L'alta velocità è satura, più treni sulle rete ma sempre in ritardo. In Toscana troppi regionali transitano insieme alle frecce rallentando il traffico. Andrea Giuricin, all'estero aumentano le stazioni dedicate ai treni veloci. Indubbiamente per quanto riguarda le opere che così definite grandi vengono prese non solo dalla stampa ma anche dai quotidiani vicini alla grande imprenditoria, come come protagoniste immediate assolute di prima necessità, ricordo che c'è anche una manutenzione da fare che va, come ho già citato, dai ponti, da tante altre realtà, alle stesse stazioni e agli stessi percorsi di tratta per andare a lavorare per tanti pendolari. Parte ma quando? Ora d'attesa ordinaria alla stazione centrale. Sono tutti occupati 400 posti a sedere nell'atrio che si affaccia sui 20 binari. Pendolari e turisti alle prese con collegamenti a rilento e disagi record. Ore d'attesa ordinaria alla stazione centrale. Non è tutto oro quel che riluce, perché leggo nella cronaca milanese del Corriere la supermamma accusata dei suoi figli. Il 29 dicembre 2018 il presidente Mattarella le conferì il titolo di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Motivazione: per aver dedicato la sua vita all'accoglienza e all'inclusione di minori in condizioni di disagio e di abbandono. Ora Germana Giacomelli, 71 anni, è indagata per maltrattamenti in famiglia ed è stata allontanata dalla struttura di Cavriana, nel Mantovano, da lei creata, che in 34 anni attività ha accolto più di 100 bambini. L'inchiesta della Procura di Mantova è nata dopo alcuni servizi del programma TV Le Iene, che ha raccolto testimonianze di ex ospiti della casa famiglia. Il legale della Giacomelli assicura, chiariremo tutto. Detto questo, parliamo di cultura, perché sempre in temi di bilanci il Fatto Quotidiano ci dà un report. Le capitali della cultura, tanti soldi, risultati incerti, quindi la logica dei grandi eventi. Dal 1985 in poi, 60 le città sono quelle che hanno beneficiato del piano europeo del turismo, cresce ma solo per un breve periodo e nascono tensioni sociali con i cittadini. Tra l'85 e il 94 il budget medio era di 25 milioni, salito a 60 dal 2007 al 2017, il picco con i 289 paesi spesi per Istanbul. Per Bruxelles l'iniziativa è un enorme successo, ma c'è chi denuncia la gentrificazione culturale, ovvero sia città che diventano inavvicinabili per la cultura popolare. Ma le grandi eventi trovano anche humus nell'articolo nel bilancio che dà il giornale. In viaggio tra le note, ora il turismo è musicale. Teatri, concerti e anche le case natali dei compositori sono mete che attirano sempre più visitatori, ora anche in Italia. Ci sono anche tour operator che pensano a tutto, dai biglietti per l'evento al ristorante, ma c'è chi chiede anche l'incontro con gli interpreti. Identikit di viaggiatore sono giovani, colti, in maggioranza europee, molte sono donne. Nel settore della classica è rimasto a lungo un fenomeno di nicchia, adesso in rapida crescita. Poi c'è l'elenco dei festival più visitati, che si apre l'Arena di Verona, da sempre visitatissima, e chiude Macerata Opera Festival col suo Feristeri con 36.500 spettatori. Questo è il quadro che l'identikit che ci dà la pagina del giornale sul tema della cultura, grandi eventi e teorie economiche. Mentre per passare dall'Italia agli esteri, con col Corriere andiamo a Di Maio. Missione dell'Unione Europea per la Libia. In vista dell'arrivo generale del generale Haftar a Roma, la Farnesina riceve l'ok da Berlino e da Bruxelles, quindi l'Italia cerca di porsi mediatrice in una situazione come quella libica, che è difficile, davvero pensa poter mediare qualcosa tra le armi e i vari mercanti d'armi. E di armi parla anche Lorenzo Cremonesi, che intervista Fayez Sarraji, che ricordiamo è l'uomo di Tripoli riconosciuto dall'Europa di fatto, che si autoproclama comunità internazionale, mentre Haftar ha aiuti dall'Egitto, il suo competitor della Tripolitania, da Bengasi, aiuti dall'Egitto, da Putin, dalla Turchia. E proprio della Turchia si parla con Lorenzo Cremonesi, con Sarraji che risponde al reporter del Corriere: le armi dalla Turchia le avevamo chieste all'Italia, ma non c'è stata risposta. Il premier libico e i nostri avversari aiutati da più paesi. Sono anni che lanciamo l'allarme sul pericolo di interferenze militari straniere. E adesso lui è lui stesso un'interferenza, quindi tra interferenza e interferenza ci sceglie per la convenienza del petrolio. Adesso noi siamo accusati di far arrivare i tank e i droni in Turchia, si domanda scandalizzato Sarraji. L'accusa: Di Maio non è riuscito a bloccare l'aggressione militare contro di noi. Sì, riprendo l'argomento che è a pagina 9 della Stampa. Allora, si parla di Libia: Haftar sequestra nave turca, l'ira di Erdogan, più armi a Tripoli, Ankara pronta a sostegno militare navale, aereo terrestre. Mosca invece insiste per la via diplomatica. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non indietregge e la situazione in Libia, come vi abbiamo detto, diventa più incandescente con il passare delle ore. Ieri mattina un cargo battente bandiera di Grenada, ma con equipaggio turco, turco è stato sequestrato dalle truppe del generale Haftar al largo della città di Derna e portato nel porto di Ras Ilal per ispezionarne il cargo. Non è stata resa nota nessuna delucidazione né sul contenuto del cargo né sulla sorte dei 3 cittadini turchi arrestati. Quasi nella stessa ora alcuni siti turchi hanno dato notizia di un 747 non tracciato che dall'aeroporto di Sabile Gökçen, il secondo scalo di Istanbul, è decollato alla volta di Tripoli, forse carico di armi e munizioni. È guerra. Sulle coste libiche la situazione è di massima allerta. Bengasi, molti pensano che il prossimo passo di Ankara potrebbe essere l'invio di altri soldati. Purtroppo con questa escalation di occhio per occhio si pianta poi orbi e l'escalation di violenza la leggiamo ogni giorno in zona. E non solo. Intanto andiamo ad Hong Kong, sempre dalla stampa, pagina 9, le dimostrazioni pacifiche degenerano dopo la carica del polizia. Allora, qui c'è un po' un ossimoro. La dimostrazione pacifica degenera dopo le cariche della polizia. Allora magari se la polizia non carica, o viceversa, insomma. Gli attivisti della ex colonia in Cina, la falsa autonomia porta al genocidio. Hong Kong ora manifesta in difesa degli uiguri, questa minoranza, no, che c'è nel disteso e ampio territorio cinese, si salta al fronte anti-Xi. Manifestanti con le maschere di sostegno degli uiguri ad Hong Kong e sono ripresi a pagina 9, tutti contenti e felici perché non c'è la bandiera della Cina che tappa la bocca a questa piccola minoranza, ma c'è la bandiera rossa con in grande la falce e il martello, quindi felicissimi di poter mettere questa foto che già insomma riprende il clima che le nostre linee editoriali dei giornaloni tengono quando si parla di Hong Kong e della Cina. Andiamo in India, visto che si parla di un giro intorno al mondo, e parliamo con il pronipote di Gandhi contro Modi. La mia lotta nel nome del Mahatma Tsura Arun si unisce alle proteste contro la riforma che concede la cittadinanza agli immigrati eccetto i musulmani. Così la discriminazione è legge. Per me è un punto di svolta come l'espulsione dal treno per il mio antenato. Vogliono cambiare l'anima della nazione, diventerà una dittatura fascista con Modi, che insomma è il tipico uomo forte, no? E allora ritorniamo a quella che è stata una guerra che è tuttora in corso nel Medio Oriente, a pagina 17 in Siria. E per quanto riguarda l'arte, la cultura, la storia e l'archeologia, siamo a Palmira, pensate, uno dei posti più importanti, i tesori di Palmira ridotti in polvere, ora la memoria è la nostra battaglia. Il sito archeologico, uno dei posti più importanti del mondo, è stato a lungo nelle mani dell'ISIS, i danni che ha subito mettono gli studiosi davanti a un bivio molto importante: ricostruire o lasciare le rovine a testimonianza della follia jihadista. I visi delle statue e dei bassorilievi sono stati eliminati con gli scalpelli, secondo gli estremisti rappresentavano un insulto all'Islam. Voglio dire, chissà, questi estremismi religiosi, poi quando si trovano davanti a tutto ciò, come può capitare, eppure capita, e come con grande violenza per un patrimonio mondiale non indifferente, anzi inestimabile. Riprendiamo la stampa, abbiamo fatto un piccolo excursus su Repubblica, se troviamo altre notizie per quanto riguarda la cronaca degli esteri, magari sai mai, riavvicinandoci all'Italia, a quanto pare sono esaurite da La Stampa. Ritorno quindi velocemente su Repubblica, parla di clima, cercavo notizie dalla Francia, tra l'altro, che mi pareva di aver visto ma che non trovo, allora passo il microfono ad Alfredo. Io la Francia ce l'ho, infatti. Leggo: caos pensioni, Macron rinuncia alla sua. Della serie chi se ne frega, se uno gli perde in pensione sai cosa non gliene frega se Macron rinuncia apparentemente alla sua. Continuano i scioperi per la riforma, il presidente invita alla tregua per Natale, rispettiamo le famiglie. Forse rispettano le famiglie anche facendo andare in pensione quando è giusto. Il capo dello Stato non residerà come gli spetterebbe nel Consiglio Costituzionale. Mentre succede, abbiamo parlato di ambiente, ci torniamo, roghi e polemiche, l'Australia brucia 2 volte, un paese in fiamme, sotto tiro le vacanze e le UE del Premier, che non ha mostrato grande sensibilità, andando al fresco perché è molto caldo in Australia, visto che i fuochi e i roghi che coprono buona parte del territorio dell'isola oceanica. Morrison accusato di fuga dalle emergenze, di ignorare la crisi ambientale. In Croazia, secondo il giornale che sto leggendo, questa volta l'articolo di Roberto Fabri, Croazia, sospiro di sollievo, l'ex cantante pro-Ustascia, cioè nazista, escluso dal ballottaggio. Fine anno col brivido a Zagabria, non solo per il gelo dell'inverno balcanico. La Croazia, che dal 1 gennaio deterrà la presidenza di turno semestrale del Consiglio dell'Unione Europea, sembra aver evitato per un soffio il rischio di fare gli onori di casa con un nuovo capo dello Stato di estrema destra nazionalista. Secondo i risultati del 98% delle schede scrutinate ieri sera, alla prima tornata del presidenziale il candidato Miroslav Skoro, cantante folk molto popolare per le sue ballate che esaltano le gesta politiche del primo presidente composto jugoslavo-croato, Tudjman, e quelle militari della famigerate milizie fasciste Ustascia degli anni 40, è andato molto vicino a conquistare un posto nel ballottaggio decisivo a due, nonostante abbia superato il 24% dei voti. Pare certo che il prossimo 5 gennaio, a contendersi la mita poltrona di Pantov Khan, la presidenza presidenziale di Zagabria, sarà l'inquilina uscente Kolinda Gabrkorkovic e l'ex premio socialdemocratico Mironovic, che ha fatto il pieno di voti di sinistra, arrivando a un passo al 30%, cioè è quello che è arrivato per primo. Mentre vado a Cuba, dopo 43 anni in Cuba il premier e non è il Castro, non è un Castro, ma Rero Cruz si è sempre occupato di turismo, è stato in congresso e adesso è premier di Cuba in un momento molto difficile, perché naturalmente deve fare i conti con il Trump presente in alla Casa Bianca, e il nuovo embargo feroce e le questioni dei golpi in America Latina tutta. Ma abbiamo parlato della Francia, mi sposto anche alla Corsica. Corsica in mano ai clan mafiosi, la mangiatoia dei fondi europei, la cosiddetta l'agricoltura alla carte. In Francia, aperte diverse inchieste nel mirino della famiglia Costa, allevatori loro dicono, ma i PM sospettano la frode, le associazioni accusano, non si indaga sulle complicità all'interno dello Stato. Da Bruxelles 650 ispezioni imposte all'Unione Europea, dall'isola arrivano il 40% delle dichiarazioni anomale. Questo è quello che vediamo, leggiamo dal Fatto Quotidiano, che però dà un focus invece che riguarda una figura molto natalizia, il monopolio Mickey Mouse. La fantasia unificata non ci resta che Disney. L'azienda detta condizioni e i prezzi alle catene del cinema e distribuisce milioni ai politici. Legge sul copyright cambiate due volte per proteggere Topolino, proprio lui. Lobby, il gruppo è diventato un gigante dell'intrattenimento a colpi di acquisizione, non può produrre meno per incassare di più. Spettatori obbligati a fruire dei suoi prodotti. Forever let us hold our banner high. E questo era Mickey Mouse March, ma chiudiamo con la cronaca locale, maltempo, frane e disagio, torniamo sull'argomento del clima, ma letto in chiave di Carlino Bologna, raffiche di vento e pioggia alla montagna frana, strada chiusa a Pianoro, rami pericolanti oppure caduti in città e provincia, maxi lavoro per i vigili del fuoco, attenzione speciale per i fiumi in pianura, mentre un albero crolla sul palo a Castel San Pietro. L'altra parte, rivoluzione cassonetti sui viali, sempre il Carlino, rimossi 35 bidoni nelle ultime settimane e radice, svuoteremo con più frequenza quelli delle strade vicine. Riprendo una notizia che riguarda Bologna, ma che riguarda poi tutto il mondo, riguarda il lavoro, riguarda il precariato, riguarda lo strozzo che mette la grande impresa e l'algoritmo e la gig economy a lavoratori costretti a subire il ricatto con regole e con stipendi da fame. Le famose vite da rider, siamo sul resto del Carlino, scatta la legge, i dubbi restano. Le consegne di cibo a domicilio crescono del 60% l'anno, in gennaio partono le tutele, ma si temono accordi aziendali al ribasso, ma va, c'è il rischio che soltanto pochi lavoratori subordinati abbiano più tutele, e infatti se li mettessero poi tutti in regola con tutele anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro magari sarebbe meglio, ma con questa crisi devo farne la spesa al giovane che ha bisogno di avere un lavoro che una volta si chiamava il lavoretto così, ma adesso è diventato motivo immediato di necessità e di stipendio non solo per i giovani. Fattorini autonomi possono accettare o no una consegna senza discriminazioni, dicono le voci delle imprese. Sì, tanto al massimo li mettiamo a casa. Una sera con Lorenzo, il laureato che fatica, ma così vivo e studio. E poi in prima pagina l'inchiesta, dubbi sulla nuova legge, una sera da rider, è dura ma resisto. Sì, è dura, ma dovrebbero esserci altre regole, e questo secondo me è importantissimo, visto anche il diffondersi di questo tipo di consumo, ed è proprio per questo motivo che c'è bisogno di proteggere chi lavora in prima linea. Abbiamo altre notizie che troviamo su Repubblica per quanto riguarda la pagina di Bologna, solidale biologico alternativo, il regalo di Natale last minute, immancabili i consigli sul bio per quanto riguarda il Natale imminente. Si prosegue poi con le notizie che danno approfondimento alla cronaca sportiva durante l'ultimo weekend, di cui abbiamo già ascoltato dalle parole di Stefano Ugolini. Chiudiamo con questo periodo di feste che è sempre pericoloso per le occupazioni, perché magari davanti alla città distratta e davanti chiusa in famiglia qualcuno pensa di risolvere i problemi a colpi di sgombero. Parliamo di XM24, visti i nuovi eventi di sgombero sulla nuova occupazione di XM24 in via Ferrarese, il centro sociale si attiva per resistere. Di questo spiega tutto Andrea, attivista dell'SM24, ai nostri microfoni. Quindi con questa intervista vi salutiamo domani alla stessa ora. Ciao a tutti. Alla situazione di oggi, che vede l'area Sani minacciata da una richiesta di sequestro, siamo arrivati a partire dal 15 novembre, il giorno dell'occupazione, con la proprietà che è Cassa Depositi e Prestiti. Si è cercato un contatto, è stata fatta una richiesta ufficiale di incontro a cui non abbiamo ancora ricevuto una risposta definitiva, ma nel frattempo è arrivata questa richiesta di sequestro che fa intendere che c'è una minaccia forte di sgombero imminente. Tra l'altro sul tema è intervenuta anche l'amministrazione comunale, l'assessore Aitini, insomma dal fronte comunale hanno chiuso ogni porta nei vostri confronti. Sì, dal fronte comunale, che va ricordato è la causa dell'inizio di tutta questa storia, ovvero sono stati i mandanti dello sgombero di via Fioravanti 24. E a proposito dell'area dell'ex caserma Sani, si è speso l'assessore Aitini riguardo alla passerella, al vialetto di ingresso all'area Sani, ma soprattutto appiattendo una questione politica posta dagli occupanti dell'area Sani, appiattendola, come spesso accade, su una questione di legalità. E inoltre le altre reazioni del comune, emblematica è stata una risposta del 15 novembre: ma noi abbiamo progetti sull'area Sani, e dietro a quei progetti si nasconde l'ennesima privatizzazione di uno spazio pubblico. Quindi dall'amministrazione comunale porte chiuse e un continuo rimandare alla svendita del patrimonio pubblico, come nell'immaginazione di città che propone questa amministrazione. Cosa vi siete detti ieri in assemblea? Ieri c'è stata un'ennesima assemblea molto partecipata, centinaia di persone nell'area Sani, e i temi sono stati due. Il primo riguardo allo sgombero, che a questo punto è imminente. Da oggi infatti sono ricominciate le colazioni antisgombero, che saranno ogni giorno alle 7 di mattina. Lunedì prossimo, il 23 dicembre, chiameremo un presidio alle 12 in Piazza Maggiore per ritirare in causa l'amministrazione comunale sulla questione XM24 e ora Area Sani, e inoltre verranno riattivate tutte quei canali di informazione che sono stati utilizzati durante lo sgombero del 6 agosto durante l'occupazione. Quindi sulla pagina autistici.org/XM24Resiste ci saranno tutte le informazioni del caso. Inoltre vengono lanciati una serie di appuntamenti per le prossime settimane, ovvero domani sera si farà la festa pagana come ogni anno, il 31 dicembre verrà organizzato un cenone di Capodanno, si invita chiunque abbia proposte per iniziative nelle prossime settimane a proporle, a venire a trovarci, a attraversare lo spazio e renderlo partecipato. Da ultimo, nel momento in cui arriveranno, se arriveranno, lo stile di XM24 in 17 anni è stato quello creativo e quindi sarà una resistenza creativa. Come l'abbiamo vista insomma ad agosto scorso. Esattamente, esattamente. Per passare invece alla parte di rilancio, l'assemblea di ieri, il punto importante era lanciare una progettualità dal basso sull'intera Area Sani, il che significa che partecipare e autogestire sono due temi che vanno di pari passo. Le migliaia di persone che sono scese in piazza il 29 giugno, il 6 agosto e che hanno attraversato l'ex caserma Sani in questo mese passato dimostrano forte la necessità di spazi, di luoghi di aggregazione altra, di luoghi di sperimentazione politica per dare delle risposte concrete alla crisi sociale ed ecologica che ci colpisce. Questa necessità è una necessità di spazi, di autogestione, e appunto già da diverse settimane quello che è l'assemblea dell'Area Sani, dell'ex caserma Sani, stava pensando come aprire un percorso di progettualità dal basso, e una progettualità che porti all'interno nuove forze, nuove energie, nuovi laboratori che già sono arrivati, formati da persone che già sono arrivate a migliaia nell'ultimo mese, e su questa strada vogliamo continuare perché è la forma di opporsi all'ennesima forma di speculazione, l'ennesimo episodio di svendita del patrimonio pubblico e di privatizzazione. Noi invece abbiamo migliaia di ragioni sociali per rimanere lì dentro e per costruire una progettualità su quell'area, e non si è disposti a rinunciare all'ennesimi 10 ettari di spazio pubblico svenduti a privati o a grandi progetti. Dall'assemblea di ieri è emerso questo, è emersa una netta volontà a cambiare le forme di cosiddetta riqualificazione, ovvero gentrificazione dei quartieri. Basta hotel, basta supermercati, basta cemento, ci vuole progettualità dal basso, ci vogliono laboratori che portino le persone a partecipare e costruire un mondo differente. Quindi si apre pubblicamente un percorso di progettualità e il cui primo appuntamento sarà un'assemblea pubblica il 9 gennaio nell'Area Sani. Se saremo ancora lì, e se no la faremo lo stesso.